Innanzitutto premetto che sono i dati relativi a 14 centri della Regione Emilia-Romagna, che sono i centri che fanno parte del coordinamento regionale, che è un gruppo osservatorio che funziona da tanto tempo e una scheda di rilevazione comune. Allora, dal 1 gennaio al 31 ottobre 2018, le donne che si sono rivolte ai centri sono 3.629. 3.267, cioè il 90%, lo ha fatto perché vittima di violenza. Fra queste, quelle che sono rivolte per la prima volta ad un centro in quest'arco di tempo che ho detto sono 2.477, quindi abbiamo 24% di donne che sono in percorso da anni precedenti. Sono donne che in larga maggioranza hanno figli, 74.6%, sono donne che per il 35%, 34.9% per la precisione, sono donne che provengono da altri paesi. Nelle case di ospitalità la percentuale di donne straniere è ancora più alta, arriva al 70-80%, a seconda poi dei centri della regione che si considerano. Fra i bisogni è molto importante il bisogno di informazioni, quindi di avere un orientamento informato con informazioni accurate su quello che esiste sul territorio, ma anche molto quello di avere la possibilità di parlare proprio dell'esperienza, quindi il colloquio, quindi la possibilità anche di sfogarsi delle volte, di avere uno spazio per elaborare una strategia di uscita dalla violenza. E questo è quello che le operatrici fanno a partire da un posizionamento appunto di donne competenti, perché da tanto tempo si formano e lavorano su questo. Il 21.3% ha chiesto una consulenza legale e circa il 10% arriva al centro con una situazione di emergenza abitativa, quindi perché è a rischio proprio ulteriore di violenze gravi oppure per situazioni di emergenza di altro tipo. Non so se interessano anche i dati sulle violenze subite, nel senso che essendo donne che subiscono violenza prevalentemente da partner e da ex partner, sono spesso vittime di comportamenti violenti di natura diversa, quindi violenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche. Per questo, come dire, le percentuali sono per ciascun tipo di violenza piuttosto alte, nel senso che sono tutte donne che subiscono violenza, ma il 63.6% subisce violenza fisica, il 35.8% subisce violenza economica, l'88.9% violenze psicologiche, il 12.9% violenze sessuali. Come dicevo all'inizio, il coordinamento regionale ha un gruppo osservatorio che si è occupato della raccolta dati sin dal lontano 1996-97, quindi abbiamo delle sequenze di dati che possono essere confrontabili. Abbiamo preso i dati del 2015, giusto per avere un termine di confronto un po' più ampio, e quello che abbiamo visto è che rispetto al 2015 c'è un aumento delle donne accolte pari al 16.1%, cioè 322 donne in più rispetto al 2015. C'è una categoria particolare, una tipologia particolare di violenza da cui deriva questo aumento o è distribuito proporzionalmente? Devo dire che rimane invariata la percentuale di donne che subiscono le singole tipologie di violenza, quindi direi che non ci sono grosse differenze su questo. Sono aumentate le donne ospitate nelle case e questo è difficile perché le donne ospitate nelle case hanno sicuramente situazioni di violenza più gravi perché sono lì, perché sono in pericolo, possono essere arrivate in situazioni di emergenza oppure attraverso una strategia mirata proprio all'uscita da casa in una residenza a indirizzo segreto, oppure possono essere anche alloggi di transizione. Quindi è difficile dire sulla base del dato generale se sono aumentate situazioni di violenze più gravi. Quello che sappiamo dall'Istat, questo dall'indagine vittimologica nazionale del 2015, è che effettivamente sono diminuite le violenze meno gravi, sono aumentate le violenze più gravi, quali stupri e tentati omicidi e percosse, eccetera. L'ultimo dato sull'ospitalità che dicevo è aumentata. Le donne ospitate nelle case, quindi le donne e i figli ospitati, sono state 566 a ottobre del 2018 ed erano nel 2015, nello stesso periodo, mese dell'anno, 355. Quindi abbiamo un aumento pari a 211 unità del 59.4%. Le strutture dei centri sono potenziate rispetto al 2015. Questo anche grazie appunto ai fondi regionali e certo anche molto alla pervicacia dei centri che si sono dotati sempre di più di queste strutture a partire dai bisogni delle donne. Le donne che stanno nelle strutture abitative, c'è una percentuale di quante hanno dei figli con sé? Sì, sì, direi che è ancora più alta, potrebbe, non ho il dato preciso, sicuramente è intorno all'80%.